Allora, quindi, riepilogando, mentre nella fantascienza degli anni 60 e 70 troviamo spessissimo, anche nello stesso libro, robot, cyborg e protocorpi disseminati per quel poco che c'erano, nel cyberpunk, e diciamo, pensiamo direttamente a Neuromante, il robot non lo troviamo più. Non ci sono più robot, gli scrittori di cyberpunk non parlano più, diciamo, di robot. Poi si possono fare i film sui robot anche nel 2000, diciamo, erotti. Però il robot smette di essere un luogo centrale dell'immaginario, di questo l'immaginario. Rimangono. Allora, per esempio, Neuromante è una bellissima galleria, o se vogliamo prendere tutti e tre i romanzi insieme, Neuromante, Count Zero e Mona Lisa, sono una bellissima galleria di cyborg, di cyborg di ogni genere, di cyborg elettromeccanici, cyborg mediatici, cyborg del codice e corpi disseminati. Il corpo disseminato più bello della speriamo che non sia rotto. Il corpo disseminato più bello della trilogia sta nel terzo del romanzo ed è Colin, l'amichetto invisibile di Mona Lisa, sì, no, della terza, non ricordo, dell'altra, non ricordo come si chiama, della signorina, perché in Mona Lisa ci sono tre personaggi femminili bellissimi, una è Molly, l'altra è Mona Lisa, la terza non ricordo il nome, e Colin è amico di questa, giusto, sì. E Colin è un costrutto informatico che si presenta in forma di ologramma, però visibile solo a questa ragazzina, la quale gli parla come fosse il coniglio, insomma, come fosse il coniglio invisibile, insomma, gli amici invisibili dei bambini, insomma, no? L'amico invisibile di Shining, insomma, però invece è un pezzo di, ed è un essere, quello è un corpo disseminato bellissimo, un corpo disseminato che non è mai stato corpo, Dixie Flatline perlomeno è stato corpo un tempo, adesso è un pezzettino di è un insieme di programmi su un hard disk, ma un tempo è stato un corpo. Colin non è mai stato un corpo, Colin è direttamente un... L'altro bel corpo disseminato invece sta in Count Zero, nel secondo romanzo, ed è Virek. Virek è un miliardario, su Virek ho scritto un saggio perché mi piaceva moltissimo, che si chiamava Vivere in una vasca, il mio saggio. Perché dire che è un miliardario che vive a Barcellona, non so l'amico di Barcellona, no? Vive a Barcellona, ha una malattia terribile della pelle, orrenda, fa schifo, deve vivere tutto il tempo immerso in una vasca, non si può muovere. E siccome non si può muovere, Virek si è fatto collegare e vive costantemente connesso, costantemente collegato, pensate bene, insomma, è una Count Zero è dell'86, quindi non c'era ancora neanche internet, insomma. È costantemente connesso e si materializza di volta in volta, e Virek parla nel libro, soprattutto con Marley, che è una delle tre protagoniste di Count Zero, e ci parla sotto varie forme, sotto vari corpi, si presenta a lei con vari corpi, si presenta con dei corpi fisici, persone che sembrano essere umani in carne ed ossa. Gibson non spiega bene come, se sono corpi sintetici, se siano corpi umani, virgolette, posseduti, se siano... ecco un altro modo di disseminare il corpo, il tuo corpo reale sta bloccato da una malattia in un posto, ma tu ti connetti e crei dei corpi direttamente, crei degli effetti di realtà così convincenti che sono dei corpi veri, saranno sintetici, saranno naturali, non lo sappiamo e non ci interessa, ma sono come degli avatar, non nel cyberspazio o nel multiverso di Stevenson, ma sono degli avatar nella vita reale, e diciamo Virek li crea e li distrugge quando vuole, perché sono dei pezzi di se stesso. Prima ho detto, chissà, saranno, non so se sono corpi reali posseduti da Virek. Il tema della possessione è al centro del secondo romanzo della trilogia di Gibson, che è Count Zero, perché in Count Zero fanno la loro comparsa niente meno che i Loa, cioè gli dei del voodoo, del voodoo o del candomblé nella variante brasiliana, insomma di queste strane religioni sincretiche che mettono insieme antichi riti pagani, elementi del cristianesimo, eccetera, e di cui tutta l'America Latina, soprattutto il Centro America, il voodoo di Haiti, la santeria di Cuba, il candomblé di Bahia, insomma, è piena, e che sono basati sulla possessione, in cui la cui idea fondamentale è che durante il rito il corpo, diciamo, lo spirito del Dio, il Loa, entra dentro di te e tu diventi in quel momento Ogun Ferail, Baron Samdi, dipende dai vari, questi vari dei, che è una bellissima riattualizzazione e un bel modo di rivivere il politeismo e quindi di diciamo, liberarci di questo Dio unico, diciamo, dittatoriale, che non è altro che il pensiero unico del tardo capitalismo, dal punto di vista nostro, ora, insomma, diciamo, e invece fare rivivere la pluralità degli dei, che non sono in realtà dei, ma sono semplicemente dei principi vitali, delle forze vitali. Ovviamente i marxisti parrucconi e universitari si sono incazzati come delle bisce con Gibson, come si incazzarono con Philip Dick, che avevano osannato negli anni 70, quando cominciarono a leggere gli ultimi romanzi di Dick, tutti pieni di Dio, di religione, eccetera, eccetera. E così il mio amico Darko Suvin, sì, croato-canadese, croato adesso che anche lui vive qua in Italia, non tutti in Italia, si fa, non so, per tutto il mondo della fantascienza si tratta in Italia ogni tanto. Lui vive sulle colline lucchesi, Darko Suvin, non confondere con Darko Mader, che è un'altra cosa, si chiama Bruidac. E Darko Suvin si incazzò e scrisse che, quando insomma, si incazzò, disse che questo era un cedimento cedimento di Gibson alla ideologia spiritualista. E ora voi sapete a me quanto me ne freghi e quanto sia tenero con lo spiritualismo, però non credo che senti un cazzo dirlo, non c'è nessuno spiritualismo, sono delle cose terribilmente concrete e materiali, come possono esserlo ovviamente delle esperienze nel cyberspazio, quindi sono delle potenze, ma in realtà sono software. Gibson ci tiene bene, ci tiene a, diciamo, lasciare nella ambiguità l'origine di questi, però ci sono dei pezzi in Count Zero in cui butta lì l'idea che possano essere dei pezzi di software dimenticati che si sono autosviluppati all'interno del cyberspazio e che sono diventati i Loa del voodoo dopo la loro, oppure possono avere un altro, quindi non è quello che è scritto letteralmente, né il modo in cui i personaggi del romanzo percepiscono queste cose che conta. Quello che conta è la metafora, quello che conta è che, e questo è, come dire, importante, è che nell'epoca del corpo disseminato, diciamo, il concetto della possessione torna ad essere un concetto utile per capire come vanno le cose. C'è un modo di descrivere comportamenti e rapporti tra i corpi materiali e i corpi virtuali del, come dire, cyberspazio o fuori del cyberspazio, che può essere benissimo chiamato possessione. I critici marxisti non avevano letto, i critici, li chiamo marxisti, ma è giusto chiamarli marxisti, perché io non sono affatto tenero verso il marxismo, pur considerandomi rigorosamente marxiano, anzi a questo punto devo dire marx-ziano, e in effetti nel 79 organizzai con l'ambigua utopia esattamente un convegno chiamato marx-z-jana, marx-ziana, e feci una campagna per la liberazione dei marziani, fuori marziani dalle galere, dentro i padroni e le camicie nere, allora, i marxisti della cattedra, accademici che amano la fantascienza finché pensano che parli delle cose sociali come piace a loro e non gli piace, ritirano l'appoggio appena sentono puzza di eterodossia, e quindi quando si introducono delle cose che a loro avviso non sono compatibili con una concezione un po' stretta del materialismo. Allora, questi qui non avevano mai letto, per esempio, un saggio di Brenda Laurel, un libro di Brenda Laurel chiamato Computer as Theater, mai tradotto purtroppo in italiano, Computer come teatro, in cui Brenda Laurel, prima dell'avvento, nel primo periodo di avvento delle realtà virtuali, prima dell'avvento di internet, studiosa di computer e di teatro, parlava del rapporto tra i corpi, diciamo, reali e i proto-avatar, diciamo, le soggettività o le simulazioni di soggettività che abitano l'eventuale interno di un computer, esattamente nei termini di incarnazione, di possesso. D'altra parte, avatar, voi tutti sapete, è un termine che deriva dalla religione indù. E che cosa sono gli avatar nella religione indù? Sono esattamente le incarnazioni degli dèi. Gli dèi della religione indù, quando diventano uomini, come fece il dio ebraico che si incarnò in Gesù Cristo, così loro si incarnano in certi avatar. Quindi avatar, già il termine avatar deriva da quel genere di cosa. È del tutto naturale che ci sia questa idea della, come dire, della possessione. Il rapporto di possessione è un rapporto che può essere descritto benissimo, e ricordo che il grande studioso dei fenomeni di possessione in Italia, che si chiama Ernesto De Martino, e che fu quello che per primo negli anni 50 raccolse una quantità straordinaria di materiale e poi scrisse i libri più importanti sui riti di possessione, sulle pratiche di possessione dell'Italia meridionale, in particolare della Puglia, le cosiddette tarantolate, che era una forma particolare. Bene, De Martino era un rigoroso materialista, non ha mai creduto in Dio nella sua vita, però è andato a studiare quei fenomeni perché quei, come dire, fenomeni prescindono dall'autoconsapevolezza che la singola persona ha di che cos'è quello che si sta possedendo in quel momento o se sei realmente posseduto. Ma la cosa interessante è capire che esistono situazioni sociali all'interno delle quali gli esseri umani possono avere un comportamento per cui la loro personalità, normale, usuale o quotidiana viene istantaneamente cancellata e fa posto a una personalità di tipo diverso, a dei comportamenti di tipo, diciamo, diverso. E quindi commendevolissime e normalissime e pudicissime madri di famiglia dei paesi dell'internissimo della Puglia, delle campagne pugliesi più e all'improvviso si mettono a ballare sulla piazza, tirano sulle donne, fanno una serie di altre cose sconsiderate, esattamente come ad un certo punto le suore del convento di Loudun fecero in Francia intorno al 1600 erotti, i diavoli di Ken Russell, sapete tutti di cosa parlo, quello che è il caso più, diciamo, famoso, ma nelle comunità religiose è pieno di casi di questo genere qua. Allora, possessione non vuol dire che vado a studiare i fenomeni di possessione o che utilizzo la fenomenologia della possessione per parlare di un certo fenomeno, non vuol dire che mi impegno ontologicamente a dichiarare l'esistenza di Dio e diciamo effettivamente lì c'è un Dio che scade, oppure, cioè per introdurre i Loa del Voodoo in un romanzo non vuol dire che tu credi nell'esistenza dei Loa, ma vuol dire semplicemente che dai quel nome, utilizzi quella fenomenologia descrittiva che è molto utile, molto buona, molto favorevole per poter descrivere una serie. Allora, questo è un secondo tema che vorrei buttarvi lì, vorrei lanciarvi, perché il mondo del ciberspazio l'ambiente del ciberspazio, l'insieme dei fenomeni che avvengono nel ciberspazio si lascia così ben descrivere dalla terminologia della possessione. Perché la possessione diventa una metafora così ricca e così utile per capire quello che succede quando ci colleghiamo con un computer? Naturalmente se siamo, come dire, Cellini, diremo le cose in un certo modo, ma se qualche Cellino che vuole farla qui lo faccia pure, io non c'è nessun problema, mi piacerebbe invece anche che la cosa venisse studiata, fatta, vista da un punto di vista invece molto più materialistico, molto più di studi culturali, insomma, quindi necessariamente. Però credo che come dire, l'idea adesso dico solo in generale che tutti i fenomeni di cosiddetta possessione, come tutti i fenomeni di dissociazione della personalità, come sempre ci dicono sul piano della patologia quello che è vero per ogni essere umano sul piano della non patologia o della normalità. Quelli che hanno dentro di sé diverse personalità che vengono fuori a turno una via l'altra, anche molto distanti da loro, con voci diverse, con gestualità e cose diverse, non fanno altro che esprimere in modo particolarmente icastico, particolarmente espressivo, quindi patologico certamente, fuori controllo, eccetera, una potenzialità che è di tutti noi abbiamo, je è un autre, io è un altro, tutti noi abbiamo dentro noi stessi diversi io, diverse possibilità, siamo o non siamo gli animali del possibile per eccellenza, e quindi tutti dentro di noi abbiamo oltre alla configurazione quotidiana e usuale che riveliamo, abbiamo, ma peggio ancora, più radicalmente ancora, la nostra cosiddetta personalità quotidiana è fatta da una serie di componenti diverse, a volte irriducibili se noi le analizzassimo e volessimo descriverle in maniera, diciamo, rigorosa, non solo i ciclotimici come me e il professor Berardi hanno questa alternanza di buon umore, malumore, euforia, depressione, eccetera eccetera, ma ognuno di noi in qualche maniera ce l'ha, e ognuno di noi ha componenti della propria personalità, della propria psiche, come dire, diverse, e quindi l'idea della possessione, cioè l'idea che quando io mi metto in un ambiente, quando io opero in un certo contesto, possano emergere delle configurazioni comportamentali in me che non sono quelle che ho sempre espresso in altri ambienti, deriva semplicemente da questo fatto, dal fatto che la nostra cosiddetta personalità non è qualcosa di oggettivo e di esistente al di fuori delle condizioni nelle quali noi la esplichiamo, e che noi siamo convinti di avere una personalità stabile semplicemente perché viviamo per la maggior parte del tempo, o alcuni di noi sempre, nello stesso ambiente, vediamo le stesse persone, facciamo le stesse cose, Se io vengo tutti i giorni a Brera, non faccio altro che insegnare a Brera, non faccio un cazzo di altro, e vedo i miei allievi anno dopo anno, eccetera, eccetera, sì, sarà un po' diverso, ma insomma sto in un ambiente in cui tenderò a comportarmi sempre come un professore di Brera, magari un po' eccentrico, ma non mi faccio illusioni, sempre un professore di Brera, sono. Ma in realtà quando io vado da un'altra parte, quando vedo i miei amici, quando faccio, e già faccio delle cose che non sono poi ambienti così terribilmente, diciamo, diversi. Perché nel ciberspazio io sono posseduto? Perché, dice Gibson, perché lì? Perché il ciberspazio è realmente certo ha delle, ha qualche caratteristica comune con il mondo di tutti i giorni, ma non è il mondo di tutti i giorni. È uno spazio utopico, distopico, eterotopico, ma è atopico, eh? Non c'è luogo lì, è un'altra cosa. È come il giardino incantato dei poemi cavallereschi o delle Mille e una notte, è come l'Ade a cui scende Odisseo o Enea nell'Eneide di Virgilio. È uno, ha caratteristiche simili a quelle degli spazi sacri, degli spazi dominati dalle ninfe nella cultura greca, delle ninfe o dei satiri. Ve la butto lì, non lo so, è uno spazio che, questo non l'ho mai scritto da nessuna parte, quindi chissà, sarà una cazzata, è uno spazio tendenzialmente dionisiaco, cioè è lo spazio nel quale i legami, le costrizioni, le regole della normalità sociale devono essere, non che non ci sono, ma devono essere tutte le volte reinserite, tutte le volte reinscritte. È quello che è stato il Far West negli Stati Uniti per più di 50-60 anni, la frontiera, uno spazio dove la legge non c'è ancora, dove si può fare di tutto, la legge a ovest del Pecos, dove l'unica forma di legalità sono gli sceriffi, obiettivamente, dove quello che conta sono le armi, sono le pistole che cantano a Tarnstorm, all'OK Corral. Questo è il ciberspazio. Poi naturalmente questo è il ciberspazio come potrebbe essere, poi naturalmente le multinazionali e i governi arrivano già, quindi ci sono, è ovvio che non è questo il ciberspazio, però è un posto dove perlomeno potenzialmente tutte queste cose potrebbero succedere, perché è uno spazio era. Ai suoi inizi era sicuramente così, era uno spazio, era nato come uno spazio in senso metaforico, finanziato dalle multinazionali, dal governo americano a fini militari, per avere una rete acefala che non fosse centrata da nessun coso, che quindi potesse sopravvivere al famoso mitico first strike, se la Russia avesse mandato il primo missile che arrivava a segno. Il problema degli Stati Uniti è sempre stato non quello, sapevano benissimo che sul piano globale la loro forza missilistica era maggiore di quella sovietica, ma specialmente quando arrivano le armi nucleari, quello che conta non è tanto la potenza globale, ma il first strike. È per questo che Israele è così pericolosa, Israele, ovviamente anche il Pakistan e l'India, perché hanno la bomba atomica, non conta che ne abbiano poche o tante. Una volta che butti la bomba atomica, il primo che la butta, non che ha vinto, ma determina il fatto che ormai l'hai comunque buttata, e poi te ne fotte il cazzo se poi dopo, come dire, te ne arrivano 10 che ti distruggono te, intanto tu quel lavoro lì l'hai fatto. Allora gli Stati Uniti erano terrorizzati negli anni 50 dall'idea che la Russia potesse sferrare il first strike e che beccasse il comando delle forze armate che stava sotto terra, sotto un monte, eccetera eccetera. L'avete visto in un numero di film, ma dice: che cazzo facciamo se questi arrivano e ci beccano il missile? E quindi dicono: no, facciamo, basta con la rete gerarchica, basta con la rete con un nodo centrale e poi tutto intorno, facciamo una rete acefala. E dicono, chiedono al Consiglio delle Ricerche americano, che aveva un nome che non mi ricordo, mi sembra si chiamasse la DARPA o DARP, dice: progettate una rete che non abbia queste caratteristiche, cioè che abbia, e questi dicono: ah beh, si faccia una facile, cioè, con queste macchinette qua si può fare, colleghiamo i computer, i mainframe all'epoca, quindi queste enormi cose, li colleghiamo tutti in una rete, colleghiamo ogni computer con tutti gli altri, le intersezioni, ogni nodo della rete, di una rete così, può, diciamo, diventare all'occorrenza il centro. Se beccano un nodo, io faccio in tempo a isolare questo nodo dagli altri, se anche fosse il nodo che in quel momento aveva le funzioni di coordinamento, basta, lo isolo, fanno fuori quello, ma c'ho gli altri, ma cosa. Così nacque Internet. Internet nacque, la prima Internet si chiamava ARPANET. Oh, dite, che cazzo di spazio utopico, che cazzo di... Dimmi, dimmi. No, no, curva. Vai, vai, vai. No, nel senso che questa questione del cyberpunk, dello cyberpunk, siccome è definita da Ghizzo, in realtà è largamente immaginaria, cioè nel senso non corrisponde poi alla fisicità, alla fisicità del cyberspazio così com'era. Cioè nel senso che era un luogo del possibile, perché era un luogo del linguaggio naturale in cui lo scrittore scriveva tutte le possibilità, ed era un mondo in cui tutto quanto era da riscrivere completamente, cioè ogni elemento prendeva una significazione completamente diversa. E così quando ci sono i rituali, quelli della Taranta, cioè lì è lo spazio in cui la donna quando balla per 24 ore è lo spazio in cui la significazione cambia completamente, uno spazio assolutamente libero dalle diverse, da com'era il mondo, però è lo spazio della narrazione, quello di Ghizzo. In realtà poi si è visto che il cyberspazio nella realtà era estremamente strutturato su una base linguistica molto codificata, che non lasciava assolutamente nessuno spazio a una significazione diversa. Cioè era uno spazio di programmazione rigidissimo, in cui non c'era questa possessione come la definisce Gibson, perché non c'era la possibilità di un linguaggio diverso, non c'era la possibilità di riscrivere il linguaggio, cioè non c'è ancora adesso, tant'è vero che se tu vedi la differenza di rappresentazione del metaverso di Stevenson e Second Life, il metaverso di Stevenson era tipo un'unica strada in cui erano ammassati migliaia di significati diversi e la gente si perdeva in una serie di oggetti che dovevano assumere significati diversi, anche se erano estremamente rappresentativi del mondo, quindi era come Second Life. Second Life invece è uno spazio enorme, enorme, si disperde è gigantesco, però che non ti dà la possibilità di far significare niente, cioè in cui non c'è la possibilità di scrivere niente, anche se tu costruisci un albergo che sta nell'aria, cioè alla fine è sempre nelle regole di quel linguaggio lì, cioè non c'è una nuova riscrittura del linguaggio. Quindi quello di perché narrativo, quello di Gibson era sicuramente un mondo del possibile, quindi non corrispondeva poi alla realtà di quello che era il... Allora, l'obiezione di Loretta è sensata e tenetene conto. La mia risposta è che ci sono diversi livelli. Allora, il livello a cui tu fai riferimento è certamente, in ultima analisi, è quello fondamentale. Mentre gli spazi utopici della narrazione, eccetera, sono spazi pensati dai singoli scrittori, eccetera, eccetera, questo qui è uno spazio fatto con il codice informatico, questo è vero. E quindi in ultima analisi le cose sono così. In cui c'era delle vite che si autogenerano, che si auto, la vita quindi c'era anche un'idea, una fiducia nella potenzialità delle vite. Sicuramente, però, detto questo, però, da un certo punto di vista la cosa è analoga con il Far West, anche il Far West era... non c'era legge. Attenzione, però comunque sia era uno spazio fisico, quindi cazzo, i fiumi, le robe, eccetera, da un punto di vista le leggi, come dire, naturali, cioè quelle... No, però se tu guardi bene la storia di Internet, sarà stata sicuramente una illusione, però Internet comincia a svilupparsi quando all'interno di questo artefatto progettato e costruito per scopi militari, la gente, cioè quelli che l'hanno costruito, gli scienziati quindi, si rendono conto che hanno, con le cose che tu dici, certo, quindi con il linguaggio, con il codice, eccetera, hanno costruito uno strumento le cui potenzialità eccedono gli scopi per cui è stato fatto. Cioè, la roba che hanno messo in piedi già dopo il 1969, contiene molte più cose, consente di fare molte più cose che quelle piccole robe che gli hanno che gli ha chiesto il governo. E quindi dicono, ma cazzo, però questa posta elettronica che inizialmente era prevista solo per i centri tipo il generale, il colonnello, eccetera, che facciamocela pure noi, tanto, cioè, con la posta elettronica, dopo pochissimo tempo, la gente comincia, gli scienziati, i mascalzoni che sono lettori di fantascienza, erano comunque all'epoca, cominciano a chiacchierare per email sugli ultimi libri di fantascienza che hanno letto. E lui dice, cazzo, facciamo un gruppo, e fa Usenet, i news group, nascono su questa cosa, perché gli scienziati che hanno costruito ARPANET, che serve per scopi militari, fanno una piccola roba intorno, cioè si accorgono che con la stessa larghezza di banda, che era molto, era molto esigua ai tempi, ma che comunque era più di quella che serve per, e quindi fanno delle cose in più. Internet è stato sino dall'inizio un regno di sovrabbondanza, un regno che ti consente di fare, poi è vero come tu dici che al fondo poi quello che contano sono le funzioni fondamentali, eccetera, ma anche con questa limitazione che dici tu, in realtà c'è una possibilità di comportamenti e c'era molto vasta. Io ho cominciato a entrare in internet prima che ci fosse internet, prima del web, quando ancora non c'era il World Wide Web, quindi internet consisteva in Usenet e nei diciamo, news group, e nella posta elettronica e nelle BBS. Era un regno di estrema libertà, non c'era tutta la ricchezza grafica che c'è ora, non si potevano mandare i video e neanche le immagini, si parlava solo, era tutto scritto, tutto testo, tutta quanta diciamo scrittura. Ma per esempio è in quella internet lì che i primi gruppi di giocatori di ruolo, di role players, passano dalla vita reale a fare il loro gioco su internet. È lì che comincia Dungeons & Dragons, scoppia non nella versione diciamo casalinga da tavolino, erano quattro gatti all'epoca, scoppia quando si sposta su questa prima versione di internet. Quindi internet al fondo ti do ragione in pieno, però bisogna anche vedere come si strutturano le cose. Anche dentro una cosa è vero che c'è una diciamo dittatura ferrea del codice dentro internet, ma a certi livelli. Mano a mano che io salgo e che arrivo verso l'interfaccia, i mondi diciamo digitali sono mondi programmati per avere un surplus di possibilità e una sovrabbondanza, quindi una ricchezza di comportamenti possibili. Non è nel mondo di programmazione, ma nell'utente che lo utilizza. Nell'utente che lo utilizza, ma negli strumenti che hai, diciamo, certo. Ma ti dà strumenti per fare questo genere di cosa. Poi, grazie al cazzo, lo so bene che è. Comunque. Hanno creato tutte le leggi che c'erano poi nel giro di nuovo. Allora, alcune delle cose che vi ho detto si trovano in un saggio di Brian McHale che si chiama Elementi di poetica del cyberpunk, che non trovate più, ma insomma non so se c'è in internet da qualche parte, che ho tradotto io per la rivista Alphaville, uscita nel 99, nel 2001, è il secondo numero uno di Alphaville. Alphaville è una rivista bellissima in cui uscirono due soli numeri, sono tutti e due numeri uno, perché abbiamo cambiato editore per uno e l'altro, quindi abbiamo rifatto, quello comunque è la seconda Alphaville. Brian McHale, M-C-H-A-L-E, H-A-L-E, Elementi di poetica del cyberpunk, se riuscite a trovarlo, Alphaville numero 1, 1990, M maiuscolo, C minuscolo, H maiuscolo, A, L, E minuscoli, Brian McHale. Va bene, per oggi abbiamo finito, ci vediamo.